Oh, e al ritorno curioso dammi il braccio mia piccina Thank you. Thank you.

c'è poco fa qui nel cor mi risonò il mio cor ferito è già e l'indor fu che piango sì l'indor mi usara lo giurai la vincerò sì l'indor mi usara lo giurai la vincerò il dottor ricuserò io l'ingegno aguzzerò alla pensa crederò e contento resterò sì l'indorno mio sarà lo giurai la vincerò sì Thank you.

Woo!

Oh, yeah. Si ta page de ruse grazie della primavera。 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。